stop. When tomorrow awful, got tomorrow now, when you know for. And we all love the Lord to stay. Songs of life for a while, but the man comes that is true. Just love, and touch love, and wish you all my fear, and silence and soul. Just an hour away, for I won't call that still. Just an inland hour, I call it my life without. You see, I'm always gone. It's all gone on, love, I feel it all. It's all gone. Give me love. This is what it won't for all my love. She sweeps an outro, and she sweeps light out the road. She sweeps all over, meaning that I'm true. Intanto salutiamo Antonio da Firenze, Giulia qui da Roma, Antonella dalla Sicilia, e sta andando sotto la mia voce Gordon Sharp, la sua splendida voce, in questo Becoming Animal, questo progetto gestito insieme a Massimo Pupillo degli Zoo, abbastanza riconoscibile nella parte finale del brano con questo basso così trattato. Una dimensione abbastanza sconosciuta per Massimo Pupillo, Becoming Animal, che vedremo a Roma ad aprile. Stasera consueta cappatina nel nord Europa attraverso Northern Lights, le luci del nord. Compilation ideata e costruita da Raffaele Pezzella, H Sonologist. The Scandinavian Experimental Assisting Survey, dunque un disco di 2 anni fa, ma ovviamente conserva tutta la sua attualità e bellezza, andando un po' a sondare questi artisti ai più abbastanza sconosciuti, me compreso. E cominciamo per esempio con Arne Borgan, con questa Perfect But Fatalist Player, poi ci ascolteremo Esa Ruoho e infine Eugen Fall. Cominciamo con Arne Bogan, artista proveniente da Oslo, capitale della Norvegia ovviamente. Thank you. Eccolo qua, lui invece dalla Finlandia, Esa Ruoho, esattamente da Turku. Una traccia decisamente più spezzata, e questa è Interruptions Electrical, Esa Ruoho. Esa Ruoho da Turku, Finlandia. Salutiamo Gabriel Edvi from London. E andiamo avanti sempre da questo Northern Lights. Questo è il brano che va proprio a concludere questa compilation. Si chiama Lovers ed appartiene a Eugene Fall. Pianismo notturno, abbastanza diverso come climax, molto bello comunque, Eugene Fall. tre brevi momenti ma abbastanza diversi tra di loro per quanto riguarda Northern Lights questa sera. Arne Borgan con una atmosfera quasi ritualistica, poi gli spezzettamenti musicali e strutturali di Eser Uoho e questo pianoforte così notturno e inquieto di Eugen Fall, un artista proveniente da Copenaghen, quindi dalla Danimarca. Northern Lights dunque, un viaggio che terminiamo questa sera e già dalla prossima settimana tireremo senz'altro qualcosa dal cilindro magico di Raffaele Pezzella. Dalla Scandinavia arriviamo proprio qui a Roma, una delle realtà più imprevedibili e sghembe dal nome Nastro, gruppo che ama campionare e distorcere, distruggere ma ricostruire anche ogni struttura armonica. E questo viene dimostrato soprattutto in questo terzo mondo, non a caso terzo lavoro del 2014 attraverso l'Upside Down Recordings. Titoli improbabili li citiamo per onor di cronaca, ossia Eur, Blu e Gir. Questi sono i tre nomi delle tre brevi tracce da questo terzo mondo per i Nomani Nastro. Ancora Nastro con questo basso quasi funky, ma non vi illudete, cambia tutto a breve. Questi stranianti labirinti sintetici creati da Nastro, con aggiunta una fisicità molto particolare del cantante che ha avuto il piacere di guardare, di vedere dal vivo, in Nastro con Francesco Petricca, che salutiamo. Emanuele Cascone, se non erro il secondo componente, erano in Nastro. .21:40, Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Ricordo questa sera all'interno di prove tecniche di trasmissione due chiacchiere con Lili Refrain, che suonerà venerdì prossimo a Forte Prenestino in sottoscrizione Radio Onda Rossa. Peraltro stiamo affrontando un crowdfunding per quanto riguarda l'acquisto di un nuovo trasmettitore per Radio Onda Rossa. C'è un sito, un link che si può trovare sul sito della radio stessa, Produzioni dal Basso, e tutte le modalità per sottoscrivere ed aderire ad questo crowdfunding. Intanto sono partiti GoFlash da questo Post Self, ultimo loro lavoro, dopo un po' ritornano tra di noi e tornano anche bene, un buon lavoro questo Post Self. Questo è Parasites e poi ci ascolteremo Regod. Ancora GoFlash, intanto andiamo a ringraziare il papo Raffaele Pezzella che ci comunica ora che lui è aderito a questa campagna crowdfunding per il nostro trasmettitore. Lo abbracciamo con venerazione. Grazie Raffaele dunque. E noi continuiamo con questi GoFlash da Post Self. Intanto è già arrivata Liliana, Lili Refrain, e quindi tra circa un quarto d'ora inizieremo a fare queste due chiacchiere. Ottimo ritorno che riguarda i Go Flash di Justin Broderick e George Christian Green al basso. Un ottimo lavoro questo post self, ci riconferma agli apici della cosiddetta scena noise. Per un periodo lui svolse anche, come dire, un lavoro parallelo con Signal, nel periodo proprio che i Go Flash andarono, come si suol dire, in latenza. Collaborazioni poi con Techno Animal, con God e altri artisti. E adesso passiamo a qualcosa di ben più grezzo. Trattasi di Le Moderniste, di Laurent Dilogne, proveniente dal Belgio. Lui fondamentalmente del giro Rhythmic Noise, anche se ultimamente ha più, come dire, approfondito il lato più industrialoide della questione, e lo dimostra attraverso questo suo ultimo lavoro dal nome Imbalsamazione, titolo in italiano, come molti sono i titoli proprio in italiano, e anche l'etichetta stessa proviene dalla nostra penisola, la Infidel Bodies, credo proprio di Napoli o dintorni. Ci ascoltiamo Hypothèse Initiale e Les Temps des Chantiments, un francese quasi perfetto il mio. Eccolo qua, Le Moderniste. Ancora le moderniste da questo Imbalsamazione, questo suo ultimo lavoro che esce per la Infidel Bodies. E a breve inizieremo questa intervista con Lily Refrain, eccolo qua, le moderniste.